Deborah, questo test di Stroop distrugge. Mi ha già messo in agitazione. 800 24 00 24. Con una precisazione, dottor colesterolo, dottora Voledo. Dottora Voledo. Grazie. Benanzi, pensaci esatto. Tu, verrebbe da esatto. Dire. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Scusi tanto signora, è stato che danno le pensioni. Di là? Grazie. Molto gentile. Pirini? Chi è? Io, Fantozzi. Qui, carissimo Fantozzi, come va? Ecco, per prendere la pensione, suppongo. Sì, la ce l'hanno, mi ha detto. Ma dove andiamo? Lì, venga, l'accompagno. Ah, grazie. Fantozzi, che pacchia questa pensione. Si prendono i soldi senza lavorare. È qui. Grazie. Sì, è vero, ma non so lei... Al mattino ogni tanto non sente come un... Giramento di testa? No, è come una nostalgia. Numero 32! Vabbè, mi hanno chiamato, eh. Arrivederla, a presto. Il cantiere delle pensioni è sempre aperto, anche se si tratta di un settore che avrebbe bisogno di stabilità e certezze, come la vita di tutti. Negli ultimi anni sono stati molteplici gli interventi che hanno modificato i requisiti pensionistici, con un certo disappunto per i lavoratori. L'età pensionabile si sta alzando per tutti, bisogna ricordare che la riforma Fornero ha stabilito l'aumento generalizzato dei requisiti pensionistici. Saluto e ringrazio per essere qui con me Maria Carla De Cesari del Sole 24 Ore. Buongiorno. Ciao Maria Carla, grazie, con la quale intanto vogliamo presentare il dizionario delle pensioni, la guida completa sulle novità previdenziali del 2014 che, come abbiamo anticipato, è oggi in edicola in omaggio con il quotidiano. Di novità negli ultimi tempi ce ne sono state tante, perché si tenta in vario modo di incoraggiare la permanenza al lavoro. Intanto vi invito a rimanere con noi. Avremo modo di confrontarci con tanti esperti. 800 24 0024 per tutte le vostre domande. Maria Carla, avremo tempo di approfondire i temi e i nostri ascoltatori potranno verificare con le voci del dizionario che cosa sta cambiando e che cosa fare, però per dirla in sintesi, con un tweet, potremmo dire che lavoriamo tutti e di più, è così? Questo è l'intento della riforma Fornero, che è entrata in vigore dal 2012. Tanto è vero che la riforma ha detto sì, c'è un'età minima per andare in pensione di vecchiaia, un'età minima che è stata, come hai detto tu, innalzata. Chi voglia rimanere in pensione può farlo, e anzi può farlo fino a 70 anni, e anzi questi contributi ulteriori dopo l'età della vecchiaia verranno valorizzati. Quindi diciamo l'intento della riforma pensionistica è chiara. Peccato però che questa riforma non sia stata accompagnata da un'azione di supporto per supportare il mercato del lavoro, nel senso che la permanenza in azienda di persone un po' più anziane naturalmente pone dei problemi di organizzazione, e non sono stati dati gli strumenti, magari il part-time, piuttosto che la possibilità di fare lavoro diversi rispetto a quello che uno ha fatto durante tutta la carriera lavorativa o fino a una certa età. E poi ci siamo scontrati in questi anni purtroppo con il fatto che le aziende, altro che tenere i lavoratori, talvolta sono costrette, li accompagnano, esattamente, direi, no? Esattamente. 800 24 0024, il Sole 24 Ore ci propone un dizionario, noi lo sfoglieremo insieme. Se c'è una voce che vi crea qualche dubbio, chiamateci subito, i nostri esperti di denari vi risponderanno. Ma non dimentichiamo il cuore, e un altro dizionario delle pensioni lo scriviamo in diretta, perché l'uscita dal mondo del lavoro con il pensionamento può avere tanti risvolti che coinvolgono le nostre emozioni. Il passaggio dall'attività lavorativa alla pensione, lo sappiamo tutti, è un momento delicato, molto atteso, ma per il quale siamo tutti poco preparati e che ci può riservare tante sorprese. a volte brutte, a volte belle. Ci può ad esempio anche far scoprire parti di noi di cui non eravamo a conoscenza. In una parola, cambiarci, darci una seconda chance, farci giocare la terza fase della nostra vita. E allora chiamateci o scriveteci in un SMS o in un tweet e diteci la parola che vorreste vedere abbinata al periodo della pensione della vostra vita, sia già che la stiate vivendo, sia che la stiate solo sognando. Curatore, diciamo così, di questo dizionario parallelo, il nostro Alberto Pelai, medico, psicoterapeuta, professore all'Università di Milano, Alberto, è amico di Cuore Denari sostanzialmente. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Come Alberto, vedi? Perfetto. Però quali sono le parole del dizionario per, possiamo chiamarla così, il terzo tempo della nostra vita? Ma io ne ho tre. La prima è continuazione, cioè in una fase di transizione così forte della nostra esistenza, quali sono le parti di noi che sono state fortemente investite nella nostra carriera che vogliamo portare anche nel tempo del dopo carriera? Quindi qual è il filo rosso che unisce il prima e il dopo? Tenerlo vitale, tenerlo in piedi ci farà probabilmente stare molto bene. Però una seconda parola è evoluzione, cioè il fatto che noi abbiamo davvero adesso tanto tempo per costruire nuovi passaggi, nuove possibilità per la nostra vita. Cosa significa per noi trasformare il tempo del pensionamento in evoluzione? Io penso a tante persone, per esempio, che si iscrivono all'università della terza età o addirittura all'università normale e finalmente coronano, per esempio, un sogno di studio, di approfondimento di materie che non hanno mai potuto presidiare nel tempo in cui erano al lavoro. La terza parola è trasformazione, cioè il tempo del pensionamento come una sorta di nuova adolescenza, quella zona della vita dove puoi rientrare in una palestra, in un laboratorio, dove puoi smontare il te stesso che sei stato fino a quel momento e inventare un nuovo te stesso, quello che hai sempre sognato di essere, ma che la vita invece non ti ha mai permesso di diventare. Voglio leggervi alcuni SMS che stanno arrivando al 349-238-6666. Paolo ha subito accettato l'invito di scrivere insieme a te, Alberto, questo dizionario psicoemotivo delle pensioni e ci scrive una parola. La mia parola è presto. Paolo, 56 anni. Siete crudeli, e la giro a te Maria Carla, a parlare di pensioni, e pensa voi che avete fatto addirittura un dizionario, molti trentenni come me probabilmente non la vedranno mai. Eh sì, questa è una consapevolezza che si va diffondendo, purtroppo, perché sappiamo come la disoccupazione giovanile sia una delle emergenze italiana ma anche europea, e poi perché anche quando i giovani, come dire, trovano qualche lavoretto, con un termine bruttissimo, hanno dei contributi molto bassi oppure non li hanno affatto, perché ormai, come dire, le aziende fanno i conti con il costo del lavoro e trovano più conveniente, diciamo, avvalersi di contratti estremamente flessibili. Questo è un problema enorme. È un problema enorme per i giovani, ma è un problema enorme anche per gli anziani, per cui insomma ci deve essere in questo caso una consapevolezza di tutti, perché il nostro sistema, e qui vorrei introdurre un'altra lettera, forse andando un po' in là nel dizionario, il nostro sistema delle pensioni è costruito a ripartizione. Cosa vuol dire ripartizione? Vuol dire che noi purtroppo, o per fortuna, le pensioni sono pagate con i contributi di coloro che lavorano. Nel momento in cui non entrano contributi, si avranno delle difficoltà a pagare le pensioni di coloro che già hanno maturato il diritto e che magari percepiscono la pensione da qualche anno. Quindi il tema delle pensioni, al di là di tutte le chiacchiere, è veramente un tema che coinvolge giovani e anziani, in cui non ci dovrebbe essere contrapposizione. Purtroppo, come dire, la risoluzione dei problemi talvolta è sempre vista per contrasti. Salva Danaio. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Bigliettini con gli auguri mi scriverai o bottiglie regalerai. E se tornassi a un quarto alle tre, l'uscio chiuderai. Oggi, parlando di pensioni, parliamo di anzianità sotto molti aspetti, però noi conoscevamo anche l'istituto della pensione di anzianità, che tendiamo a confondere con quello della vecchiaia. Insomma, Maria Carla, cominciamo con la lettera A del vostro dizionario, ma su questo chiediamo aiuto anche ad un altro ospite che è collegato con noi. In linea abbiamo Fabio Venanzi, esperto di questioni previdenziali per il Sole 24 Ore e consulente. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Se, ha sentito che l'abbiamo anche nominato nel nostro fuori onda? Venanzio, sì. Pensaci tu! E lei sentito. Ecco, si è emozionato? Abbastanza. Allora, lei risponderà insieme a Maria Carla De Cesari ai nostri ascoltatori all'800 24 0024. Ma Venanzi, che cos'era la pensione di anzianità? Che differenze ci sono con quella di vecchiaia? Adesso sparisce il termine anzianità e viene sostituito dalla pensione anticipata, che ha requisiti diversi. Esattamente. Vogliamo fare un po' di chiarezza? Certo. Grazie. Allora, la pensione di vecchiaia è quella che il lavoratore riesce ad ottenere quando raggiunge l'età prevista dalla legge. Attualmente siamo per la generalità dei lavoratori a 66 anni e 3 mesi, perché ci dobbiamo ricordare che si applica sempre la speranza di vita ogni 3 anni. A fronte dell'età anagrafica minima è comunque richiesta anche una contribuzione minima, che è pari solitamente a 20 anni, in qualche caso possono essere richiesti solo 15 anni, ma a condizione che questi 15 anni risultino tutti quanti accreditati entro il 31 dicembre del 1992. Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, che ha sostituito di fatto la pensione di anzianità, la pensione anticipata si consegue esclusivamente con un requisito contributivo minimo molto elevato. Per gli uomini quest'anno siamo a 42 anni e 6 mesi, mentre per le donne a 41 anni e 6 mesi, e se l'accesso al pensionamento dovesse risultare ad età inferiori a 62 anni, verranno applicate anche delle penalità sulle quote retributive, che oscillano tra un 2 e un 1% per ogni anno di anticipo. Quindi diciamo che è possibile andare in pensione con il solo requisito contributivo elevato, ma dobbiamo tener presente che se il lavoratore è particolarmente giovane scatta una sorta di disincentivo al pensionamento, in quanto poi questa decurtazione verrà applicata alla pensione vita natural durante. Andiamo invece, sì, sulle pensioni di anzianità, esatto. Due parole rapidissime, che non esistono di fatto più se non solo in determinate categorie di lavoratori, si potevano conseguire a condizione di avere un'età minima, che per quest'anno è ancora ferma a 61 anni, con almeno 35 anni di contributi, e a condizione che la somma di età anagrafica e anzianità contributiva comunque faccia almeno quota 97. Si applica in questo caso ai lavoratori notturni o a chi effettua lavori particolarmente usuranti. E un'altra tipologia di pensione di anzianità che invece ancora troviamo è quella legata alle donne optanti, che riescono ad andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi. E per tutte le tipologie di pensioni di anzianità ancora esistenti non ci dobbiamo dimenticare che, una volta perfezionati i requisiti sia anagrafici sia contributivi, i lavoratori devono comunque attendere la finestra mobile, che in questo caso continua ancora a trovare applicazione e dura almeno 12 mesi. Grazie, intanto invito i nostri ascoltatori a chiamarci, voglio dare spazio alle loro telefonate. Salvatore dalla provincia di Avellino, 800 24 00 24, buongiorno. Buongiorno, la mia domanda era questa, sì. Mia moglie lavora da un anno, ha 50 anni, e tutti i contributi che sta versando, che fine faranno? Dottor Venanzi. Non ho capito, chiedo scusa la domanda. La moglie ha 50 anni. Lavora da un anno. Sì, sì. Okay. I contributi gli daranno diritto a una pensione comunque contributiva, in quanto lavorando solo da un anno la signora si trova in un sistema di calcolo contributivo, quindi successivo al 95, per cui se al raggiungimento dell'età prevista per la vecchiaia non dovesse avere almeno i 20 anni di contributi, cosa che non ce la dovrebbe fare visto l'età attuale della lavoratrice, potrà accedere alla pensione comunque a 70 anni di età, quando saranno richiesti solo 5 anni di contributi. Intanto molti ascoltatori ci stanno scrivendo al 349-238-6666, ma li invitiamo naturalmente anche a chiamarci per scrivere con noi il dizionario parallelo. Così l'abbiamo chiamato, sempre sulla pensione, abbiamo preso spunto da quello che è oggi in edicola con Il Sole, e insieme ad Alberto Pellai vi invitiamo a scrivere le vostre parole. Per la B ci scrive Francesco da Mantova: propongo bile, quella sostanza che produco non trovando lavoro. La mia pensione è ora, ad esempio. Altri ascoltatori mi scrivono che per la pensione, come ci scrive Rosita, per me libertà, grande libertà. Buona giornata Rosita, se non hai nipoti, altrimenti la libertà. Passatempo in attesa della signora morte, ci scrive Maila, una visione assolutamente pessimistica, e a cui contrapponiamo il messaggio di un ascoltatore, di Antonio da Firenze, che ci scrive: per una bella pensione le tre S: salute, soldi e sesso. E io vado da Marco dalla provincia di Varese. Buongiorno Marco. Buongiorno a tutti e complimenti. No, io invece sento che tutti sono disperati per questo andare in pensione. Io faccio parte della leva del 62, che non so, io ai miei tempi mi ricordo, anche se non ho 51 anni, ma della mia classe delle medie su 28, in 20 siamo andati a lavorare e 8 sono andati avanti a studiare. Io mi accorgo che anche usando il pensionometro in alcuni siti, inserendo la data di quando ho iniziato a lavorare, risulta che è impossibile, perché non è contemplato che uno andasse a lavorare a 14 anni, 15 anni. E invece è così, perché io mi trovo che tutta la mia vita, perché quello, io sì, sono d'accordo che si va in pensione tra virgolette giovani, però è anche vero che quando tanti miei amici andavano, o alcuni miei amici andavano a scuola, io, come tanti altri, facevo dei lavori che non sono da impiegato, perché nessuno ha fatto un impiegato andando a lavorare a 15 anni. Certo. Quindi mi trovo che sia fortemente sbagliato tirare via la possibilità a persone che hanno sacrificato la loro vita prima per andare dopo. Io andrò con 43 anni e mezzo, 44, col 5% in meno, perché sono anche sfortunato che vado a 58 anni e mezzo. È una cosa terrificante, ne parlano pochi, se non ho sentito il senatore ministro onorevole Damiano, che ha detto che è un tappo di damigiana sulla possibilità ai giovani di andare a lavorare, perché finché ci saremo noi non andranno i giovani. Noi saremo scontenti gli ultimi anni, i giovani altrettanto per non trovare lavoro, però è vero che ha un patto cassa, e questa è una cosa estremamente negativa per tutti quelli che come me si sono trovati il traguardo spostato avanti di colpo di 5 anni. Però adesso Marco ne parleremo con i nostri esperti, ci ha dato naturalmente un buono spunto, ma allontanare un po' il periodo per dire addio al lavoro, insomma andare in pensione un pochino più in là, non per vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, potrebbe anche aiutarci a stare meglio. Sentiamo. Rimandare l'appuntamento con poltrona e pantofole e mantenere il cervello occupato più a lungo sarebbe un modo efficace per tenere lontane le malattie neurodegenerative. La conferma arriva da una ricerca condotta dall'Istituto di Psichiatria del King's College di Londra su 1320 pazienti già affetti dal morbo di Alzheimer. Quelli che avevano abbandonato più tardi l'attività lavorativa si sono ammalati molto dopo il gruppo di baby pensionati. I ricercatori, il cui studio è stato pubblicato sul Journal of Geriatric Psychiatry, hanno calcolato che rispetto alla media ogni anno di lavoro in più equivale a 6 settimane di neuroni protetti dalle malattie. Tutto merito degli stimoli supplementari che il cervello continua a ricevere, in grado di rinforzare i legami tra le cellule cerebrali. La possibilità che la riserva cognitiva di una persona possa modificarsi più tardi, spiega John Powell, uno dei ricercatori, dà peso al concetto usalo o perdilo, per cui mantenersi attivi a lungo ha positivi effetti sulla salute, compresa la riduzione del rischio di demenza. E saluto il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore. Bentrovata Nicoletta, buongiorno a tutti. Insomma, usalo o perdilo. La ricerca che abbiamo letto, tratta dal portale Salute 24, ci aiuta a vedere la cosa sotto un altro punto di vista, non per indorare la pillola, ma il lavoro permette di tenere il cervello impegnato e stimolato, condizione per non mandarlo in pensione. Tra poco abbiamo i mercati, ci anticipa un messaggio positivo ricaricante e poi riprendiamo il tema? Ma il messaggio è quello proprio che dallo studio, la riserva cognitiva, cioè i titoli di stato che abbiamo da parte relativamente alle sinapsi neuronali, non sono solo quelli che mettiamo tra i 15 e i 25 anni, ma evidentemente tanti nuovi allacci possono essere fatti anche in corso d'opera, quindi il nostro patrimonio, che non è economico ma di sinapsi, quindi di contatti nervosi, cresce nel corso del tempo e la nostra vita è neurologicamente sempre in divenire. Questa è la buona notizia. Cuore e denari. Eccoci tornati, oggi stiamo parlando di pensione tra cuore e denari, anche se la donna di denari oggi non c'è, tornerà lunedì, e parleremo di pensione tra poco anche tra uomini e donne. E vi chiediamo 800 24 00 24. Stiamo sfogliando con l'aiuto dei nostri esperti il dizionario del Sole 24 Ore sulle pensioni. Ma volete scrivere con noi in diretta un altro dizionario, il dizionario parallelo, che racconti un po' quello che per voi è la pensione o che immaginate possa essere la vostra pensione. Prima dei mercati, insieme al professor Barbanti, abbiamo dato una buona notizia. Chi usa il cervello e lo usa anche per lavorare naturalmente, si mantiene più giovane, più attivo a lungo. Insomma, il fatto che la data della pensione sia posticipata al cervello può far bene, perché non mandiamo in pensione il nostro cervello, professor Barbanti. Beh sì, per almeno tre buoni motivi, motivi di comportamento, di affettività e di cognitività. Il lavoro, non dimentichiamocelo, è ritmo. Ora io parlo di un lavoro che non sia di quelli drammaticamente usuranti e che non sia un lavoro con mobbing e psicologicamente alienante, ma insomma il lavoro è ritmo e il nostro cervello paradossalmente patisce le staccate, è come una macchina che non tiene il minimo all'incrocio, si spegne, va meglio quando è in funzione. Il secondo aspetto è quello dell'affettività. Il lavoro è in grado di incanalare lo stress e in parte di educarlo. Lo stress, vediamolo come se fosse comunque una plusvalenza criminale, ma comunque un qualcosa che può essere incanalato. Certo, alcuni lavori lo provocano, ma lo stress di origine familiare, per esempio, possono nel lavoro trovare una sua fisiologica o quasi fisiologica estinzione. E poi il terzo aspetto è quello cognitivo. Noi quando lavoriamo non solo ci misuriamo e a volte competiamo con gli altri, questo in senso positivo, ma dovremmo competere con noi stessi, alzando, come potrebbe fare un buon personal trainer, volta per volta l'asticella delle prestazioni, e questo cognitivamente è sviluppo continuo, non lavoriamo mai nella stessa maniera anche se abbiamo 60 anni. Certo, tutto questo non decade se il lavoro è un lavoro fatto controvoglia, con rapporti di lavoro drammaticamente così pericolosi per la nostra salute psicologica, ma in senso stretto lavorare è neurologicamente veramente un elisire favorevole. Tra poco parleremo della differenza tra uomini e donne, modi differenti di andare in pensione, ma anche modi differenti di accettare e vivere la pensione. È singolare che i messaggi che mi stanno arrivando dalle nostre ascoltatrici mandino, Alberto, tutti delle parole positive. Ad esempio Rosita, l'avevamo letto, libertà. Federica scrive serenità. Laura da Como, miglioramento. Lella, rinascita, perché la pensione diventa un'occasione per far sport. frequentare anche occasioni culturali, fare viaggi. Insomma, sembra che il mondo femminile abbia una visione più rosea della pensione. Ma io credo che corrisponda proprio un po' alla modalità con cui ci costruiamo l'identità. Gli uomini spesso sovrainvestono nella loro attività professionale e spesso fanno proprio coincidere la loro identità, chi sono io, con la loro professione. Io sono il mio mestiere. Voi donne in questo secondo me siete molto più competenti, in termini emotivi molto più intelligenti, cioè riuscite a stare a 360 gradi dentro alla vostra vita, a prendere molta più soddisfazione probabilmente anche dalle relazioni con le persone, con gli affetti, con le persone che avete intorno. Conseguentemente uscire dal lavoro non diventa più ho perso la mia identità, ma significa posso investire di più in altri aspetti che costruiscono la mia identità e che ho coltivato per tutta la vita. Se un uomo ha coltivato solo il suo lavoro, forse innatamente dalla mattina alla sera, è povero di relazioni, è povero di passioni, è povero di passatempi, effettivamente per lui la pensione deve essere una rigenerazione totale della propria identità. Essere e benessere. Curando questi mali, gli uomini e le donne sono uguali. Maria Carla, non voglio commentare perché proprio vinciamo a mani basse. Vinciamo a mani basse, sì, ecco. Da questo che dice Alberto, sì. È un mondo tutto rosa. Tutto rosa, possiamo dire non avete che da imparare? Da noi? Dovremmo dirlo. Suggeriamolo. Ma torniamo al nostro dizionario, andiamo alla lettera D come Deborah, D come donna naturalmente, lo sappiamo, la pensione è un po' diversa per gli uomini e per le donne, a parte che, come diceva Alberto, le donne non vanno mai in pensione e comunque vivono la pensione in modo molto più creativo e pieno degli uomini, ma per le donne ultimamente sono cambiate tante cose e tutto in una volta. Ci fai un quadretto? Uno sì. Specchietto? Partiamo da quello che diceva prima anche Fabio Venanzi. Allora, le donne hanno ancora fino al 31 dicembre 2015 la possibilità di optare per andare in pensione prima. Cosa significa optare per andare in pensione prima? Significa scegliere una pensione calcolata con il metodo contributivo, che in genere vuol dire tanto versato, tanto percepisco come assegno pensionistico in rapporto all'età in cui vado in pensione, quindi alla mia aspettativa di vita, e questo metodo è un pochino meno favorevole del metodo retributivo, e possono farlo appunto andando in pensione a 57 anni e 3 mesi se dipendenti, a 58 anni e 3 mesi se lavoratrici autonome. Uh-huh. Questa possibilità è aperta fino al 31 dicembre 2005, però attenzione, le donne che avessero intenzione di fare questa scelta devono affrettarsi, perché l'opzione deve tener conto anche della finestra che si apre, il periodo che passa dalla maturazione dei requisiti alla percezione dell'assegno, e quindi devono farlo entro maggio se lavoratrici autonome, entro novembre se lavoratrici dipendenti, perché tutto deve essere compiuto entro il 31 dicembre, si deve avere, diciamo, l'assegno quasi in mano. Per quanto riguarda la pensione anticipata, le donne, come ha detto Fabio, possono andare in pensione quest'anno con 41 anni e 6 mesi di contributi, con quella penalizzazione se rispetto agli anticipi, rispetto a 62 anni di età, una penalizzazione che fino al 2017 non colpirà coloro che hanno questi contributi tutti di lavoro effettivo, quindi non ci sono periodi per esempio di riscatto. Infine la pensione di vecchiaia. Abbiamo detto che le donne del pubblico impiego sono già parificate come età pensionistica agli uomini, e quindi le donne del pubblico impiego vanno a 66 anni e 3 mesi, mentre le donne dipendenti del privato vanno da quest'anno a 63 anni e 3 mesi, le donne autonome vanno da 64 anni e 6 mesi da quest'anno, perché, come dire, da quest'anno è iniziato, diciamo, si è avuto un altro passo verso quell'elevamento dei requisiti anagrafici che porterà le donne, come dire, l'età delle donne a parificarsi con quella degli uomini. Abbiamo Paola, a proposito di donne, che ci chiama da Torino, e poi Graziella, ancora, a proposito di donne, dalla provincia di Milano. Paola, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per tutta la vostra professionalità e tutto quello che ci date. Grazie Paola, grazie a lei per questo bel complimento che ci... È un piacere, no, non è un complimento, è la realtà veramente di quello che ci date. Allora, Paola, veniamo alla domanda, che così la giriamo subito a Fabio Venanzi. Grazie. Dunque, io devo compiere 64 anni il 2 maggio. Sì. Adesso ho questo problema, io avrò 10 anni di contributi versati fra colf e badante. Come sono messa Fabio Venanzi? Come è messa la nostra amica Paola di Torino? Allora, dipende molto da dove si colloca temporalmente il periodo contributivo. Se fosse tutto successivo al 1995, comunque riesce a perfezionare il diritto per una pensione di vecchiaia contributiva, quindi avrà una rendita calcolata esclusivamente sulla base dei contributi versati. Se invece di questi 10 anni una parte si colloca prima del 1996, di fatto, pur lavorando fino a 70 anni, Paola non riuscirà ad avere un numero di contributi sufficiente per accedere alla pensione di vecchiaia, quindi potrebbe non aver diritto alla pensione. Graziella ci chiama dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, e mi associo alla signora di tutto quello che ha detto. Grazie. Siete molto corretti e molto perfetti. Io è la mia stessa situazione, forse della signora, solo che io ho lavorato 14 anni nell'industria e nell'89 ho pagato 2 anni di volontari. Io ho fatto 60 anni a dicembre del 2013, volevo sapere come sono messa. Grazie Graziella, mi immagino Fabio Venanzi che lì appunta, che scrive. Quale parte del cervello sta usando, professor Barbanti, Fabio Venanzi? Ah beh, sicuramente il mestiero sinistro, se non è un mancino. Sono ambidestro. Ambidestro. E allora probabilmente li usa tutti e due, se non addirittura il destro. Per questo è un consulente del sole, vedi, ambidestro, lo usa tutto il cervello. Professor Fabio Venanzi, che cosa possiamo dire a Graziella dalla provincia di Milano? Allora, in base ai dati che ha fornito, se riesce ad avere i 15 anni di contributi al 1992, comunque avrà diritto alla pensione quando raggiungerà l'età prevista tempo per tempo. Come diceva Maria Carla prima, le donne del settore privato dipendenti nel 2014 devono soddisfare 63 anni e 9 mesi, quindi almeno deve attendere altri 4 anni, grazie da Milano. Se invece non riesce ad avere i 15 anni al 1992, dovrà necessariamente arrivare ad averne 20, e quindi trovandosi già a 16 anni dovrà lavorare altri 4 anni. 800 24 00 24, continuate a parlare con noi, chiamateci, sfogliamo insieme il dizionario delle pensioni, ma ne scriviamo uno insieme ai consigli di Alberto Pellai, e sentiremo naturalmente il professor Barbanti, che ci aiuterà a impegnare anche questo tempo attivamente, non mandare, come si dice, il cervello in pensione. Cuore e denari. Eccoci di nuovo insieme. Diversità di genere, le pensioni, siamo diversi, uomini e donne, nel modo in cui andiamo in pensione, siamo diversi anche nel modo in cui affrontiamo la pensione. Professor Barbanti, è questione anche di testa. È questione di testa, è questione anche di ammortizzatori sociali che la donna si è creata nel corso del tempo. La donna ha da sempre, almeno la donna italiana, e lo dico con enfasi e con complimento, un secondo lavoro, un ruolo insostituibile nel tessere delle relazioni familiari, non solo dentro la casa ma anche fuori. L'uomo, come diceva Alberto Pellai correttamente prima, spesso si sente essere ciò che fa. e quando non fa non si sente più una persona, la donna ciò non corre questo rischio. Vorrei però parlare per par condicio di ciò che può succedere comunque di positivo nel pensionamento, facendo aprire gli occhi sul fatto che noi campiamo, possiamo campare 20 anni dopo la pensione, siamo tre persone, quelli prima di lavorare, quelli che siamo quando lavoriamo e quelli che siamo dopo aver lavorato. Noi esprimiamo i nostri geni, che sono una sorta di gratta e vinci che abbiamo dentro di noi e che periodicamente vengono espressi. Alcuni geni vengono espressi sequenzialmente, cioè tardi nel tempo. Per esempio il gene per i capelli bianchi, ci sono famiglie di persone con i capelli bianchi ma nascono con i capelli scuri. Sì. Ebbene, l'ambiente che sta intorno a noi e che non necessariamente è negativo col pensionamento, possiamo avere magari più interessi, può aiutare a grattare e vincere qualche aspetto di talento. Fino a qualche tempo fa si credeva in maniera molto meccanicistica che noi, che i nostri geni fossero come le pellicole fotografiche, una volta sviluppate si stampano e esce fuori solo una foto, cioè da un gene esce fuori solo una proteina, quindi una certa conseguenza. Si è visto in realtà che, come succede in camera oscura, io la foto la posso sovraesporre, sottoesporre, stampare su carta lucida, su carta opaca, cioè l'ambiente effettua una modificazione chiamata epigenetica, in grado di dare delle nuance di questi geni. Cosa vuol dire? 20 anni dopo la pensione? Ebbene, durante questi 20 anni possono uscire fuori i nostri aspetti positivi, certamente in ambito artistico, persone che si scoprono in grado di essere pittori, a volte in ambito sportivo, certamente in ambito affettivo. Nonni che sono stati genitori severissimi e molto impazienti, con una straordinaria capacità non di fare da badanti, ma di essere il tutor dei loro nipoti. Quindi sfruttiamo questa enorme possibilità biologica che anche l'età del pensionamento può neurologicamente dare a noi. Quindi trasformiamo il pensionamento, iniziamo a vedere la pensione come una sfida positiva e anche un'occasione di crescita personale. Ci sono delle ricerche, tra l'altro, che dimostrano delle evidenze scientifiche sulla pratica di sport, che in qualche modo ha cambiato un po' la situazione psicofisica delle persone che sono andate in pensione. Sì, intanto lo sport libera in noi dopamina e quindi dà euforia, le endorfine, dà il benessere, serotonina e dà buon umore. Addirittura ci sono tanti studi che dimostrano come il fattore di crescita nervoso, quello per cui vinse il Nobel la professoressa Montalcini, viene liberato dallo sport. Ma un motivo in più per farlo, oltre che per impiegare correttamente il tempo in attività che non siano magari le sale bingo, dove purtroppo molti anziani tendono ad andare, è il fatto che per esempio c'è un rischio ridotto del 34% di demenza, quindi di invecchiamento, in un adulto che pratichi attività aerobica, il che vuol dire anche camminare a buon passo, almeno 3 volte alla settimana, rispetto a chi lo faccia meno volte. Però vorrei fare una piccola considerazione anche su un aspetto che riguarda un tema piuttosto caldo, che è quello della fede. Ora non lo si intenda come fede cattolica o fede religiosa in senso stretto, anche la meditazione, valgono le stesse considerazioni. Però la cosa interessante è che consente un miglioramento della qualità della vita. Ci sono 1200 studi scientifici che dimostrano un 66% di correlazioni positive con la salute neurologica in soggetti che abbiano fede, spiritualità e meditazione, che non è esattamente solo impegno intellettivo. C'è la spiegazione nel fatto che la fede silenzia quella zona in noi molto emotiva, che è il cingolo anteriore, questa zona del cervello, che è, per esempio, è responsabile di nostre reazioni emotive. Se noi guardiamo grandi personaggi con grandi fedi di tipo differente, entrambi anziani, Gandhi e Madre Teresa, ma di diversa fede per quanto riguarda la loro professione, di fronte a malati o persone moribonde guardavano e non soffrivano, ma non in senso cinico, non soffrendo riuscivano ad essere lucidi per poter aiutare. Ebbene, una delle tante cose, ci sono tante persone che poi in età così di pensione vanno a messa spesso, vanno a messa magari, oppure fanno corsi di meditazione, ovviamente la messa è una delle forme, certo, spirituali. Beh, questo può rappresentare neurologicamente sicuramente un esercizio e un viatico molto favorevole, con tante spiegazioni scientifiche. Professor Barbanti, prima di salutarla, quindi meditate, gente, meditate. Anche prima della pensione, direi. Senza dubbio. Grazie, professor Barbanti. Arrivederci a voi. 800 24 00 24, vado a Monza, c'è Maurizio, benvenuto, e poi Susanna dalla provincia di Perugia. Monza, Monza. Maurizio, buongiorno. Pronto? Maurizio, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Molto interessante, vi ascolto spesso. Volevo chiedere due quesiti piccoli. Sì, Fabio Venanzi è pronto. Ok, allora, ho sentito che c'è il lavoro usurante. Io faccio il benzinaio da sempre. Mi avevano detto che era usurante. Sì. Adesso poi mi dirà se è vero. Sì. Poi ho sentito che nel lavoro usurante è 35 anni di contributi. Più gli anni che hai, devi arrivare a 97. Io arriverò, ho 30 anni adesso di contributi, ne ho 52, arriverò a 57 anni e farò 92 anni, non 97. Dovrò lavorare altri 5 anni, quindi, se mi sono spiegato bene. Sì, io a me avrebbe già confuso con tutti questi dati, ma sai, io non sono la donna di denari, infatti ho Maria Carla De Cesari e Fabio Venanzi che mi aiutano. Fabio? Allora, il ragionamento di Maurizio è corretto, in quanto avendo 30 anni deve necessariamente arrivare a 35, però sì, il lavoro di benzinaio di per sé non è considerato un lavoro usurante, tranne che non faccia dei turni di notte e quindi di conseguenza possa essere applicata la normativa che prevede diciamo l'anticipo. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo di nuovo insieme. Oggi parliamo di pensione, stiamo sfogliando, no, in realtà stiamo sfogliando un dizionario che io vi invito ad acquistare in edicola oggi con il Sole 24 Ore allo stesso prezzo del quotidiano, il dizionario delle pensioni, per rispondere a tutti i vostri dubbi. E tutte le voci sono raccontate in modo molto chiaro, per cui voi siete stati molto carini e gentili a chiamare l'800 24 00 24. Siete stati davvero in tanti, non siamo riusciti a rispondere a tutti, non resta che andare in edicola. Ma ritorniamo, Maria Carla, al nostro amico che è gestore di un distributore di carburante, non facendo le notti non fa un lavoro usurante, anche se è assolutamente faticoso. Certo, perché i lavori usuranti sono stati definiti per decreto, quindi si sa quali sono attraverso questo decreto. Per esempio, sono lavoro usurante quello di chi conduce un pullman che ha perlomeno 9 posti da passeggero, sì, oppure ancora chi lavora nell'asportazione dell'amianto, oppure appunto chi ha un periodo notturno, di lavoro notturno. Se il nostro amico, se il nostro ascoltatore non fa delle notti, non svolge il suo lavoro su turni appunto anche di notte, non rientra nella categoria dei lavoratori usuranti e quindi in questo caso dovrà andare in pensione in base ai requisiti normali, quindi con la pensione di vecchiaia, visto che il signore ha 30 anni di contributi e quindi probabilmente raggiunge prima l'età della vecchiaia che non la pensione anticipata. Ci saluti fra un attimo che passiamo un'altra domanda a Fabio Venanzi e salutiamo gli esperti dei denari. Susanna dalla provincia di Perugia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Una domanda semplicissima. Vediamo, perché sembrano semplici. Una difficile a Fabio Venanzi. Come da sentenza percepisco l'assegno divorzile. Sì. Domani che decede il mio ex marito, avrò diritto alla reversibilità essendo divorziata? Lunga vita al marito di Susanna, Fabio Venanzi, ma? Le direi di sì. Quindi risposta secca. Susanna, ha sentito? Perfetto. Questo la mette più serena? Però insomma facciamo le corna, no? Ah sì, no, era per sapere, perché dice sei divorziata, non hai diritto. E invece il nostro Fabio Venanzi ha detto sì. Grazie a Fabio Venanzi per essere stato con noi. Grazie Maria Carla, torna prestissimo. Torno prestissimo, chiamatemi. Volentieri. Grazie. Allora, con Maria Carla De Cesari noi siamo entrati oggi in un dizionario molto particolare, quello del sole. Se c'è una cosa su cui si fonda il dizionario, quella cosa è la successione delle lettere dell'alfabeto. L'intera struttura del dizionario si basa su questo. E proprio di un alfabeto molto speciale oggi voglio farvi fare la conoscenza, un alfabeto dove le lettere si fondono, per così dire, con le note in una splendida serie di composizioni musicali. Proprio entrati in un sogno, come dice il titolo di questo brano, Lucid Dream, che è una delle tracce di Alphabet, il nuovo CD del maestro Roberto Cacciapaglia, un grande amico della nostra trasmissione, come molti di voi si ricorderanno, perché ci ha regalato qualche estate fa un corso di musicoterapia radiofonica che ha avuto grande successo. Roberto, benvenuto, anzi maestro Cacciapaglia, maestro, perché a proposito di dizionari bisogna stare attenti alle parole. Ciao Roberto. Grazie, ciao Nicoletta. Senti, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Ma un musicista, Roberto, in pensione ci andrà mai? Certo, perché ci sono due aspetti della pensione, secondo me. No? La prima cosa che mi viene in mente è che qui a due passi c'è la Fondazione Giuseppe Verdi, la casa di riposo che ha fondato Verdi, e che lui stesso in una lettera a Boito definiva la sua migliore opera, no? E quindi certamente c'è una pensione più interiore e una pensione più sociale, ecco. E io per esempio faccio un lavoro da cui non voglio staccarmi, ecco. Certo, è un mestiere che non si può fermare per legge, perché non c'è un'età, un limite. Esattamente, però d'altronde ci sono, da un punto di vista per esempio, tanti musicisti che finita la loro carriera per varie ragioni hanno bisogno di una pensione e qualcuno che si occupi di loro, quindi è una cosa molto bella. No? C'è proprio un brano del tuo CD a proposito di mestieri che non hanno limiti, che fa il caso nostro, Endless Time, Tempo senza fine. Lo ascoltiamo insieme, un breve estratto e poi ne parliamo. Ed è anche un modo per rientrare in quel dizionario che stiamo scrivendo con Alberto Pellai, il dizionario psicoemotivo della nostra pensione. Tempo senza fine, e bravo, questo mio amico Roberto Cacciapaglia. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare il suo CD proprio quasi in anteprima, è davvero meraviglioso. Poi a me, ad esempio, a Endless Time mi sa di storia d'amore. Comunque, sai, è una storia d'amore questo Tempo senza fine. Dai, diciamo che l'amore è una cosa universale, quindi voglio dire. Poi l'alfabeto è anche interessante, tornando a questo, perché penso che, diciamo, le lettere possono esprimere, no, attraverso la loro forma, proprio i nostri sentimenti, no? Quindi amore, sentimento, emozione. L'emozione è la purezza, il sentimento è la forma del sentimento e dell'emozione. Non vedi? So se... che anche Roberto Cacciapaglia ha tirato fuori le sue paroline, oltre che le sue note, Alberto. Ma guarda, una cosa interessante, tra l'altro leggevo proprio la scheda che è abbinata al suo CD Alphabet, è che c'è tutto un approccio all'alfabeto steineriano, che è un approccio proprio olistico e corporeo, per cui i bambini non viene insegnato l'alfabeto come un simbolo esclusivamente, il simbolismo delle lettere, ma viene proprio insegnato a scrivere con il corpo. Fanno un anno intero dove è col loro corpo che costruiscono la dimensione della parola nello spazio. La trovo una cosa interessantissima. In questa canzone, in questo brano, scusami, invece, Endless Time, a me è successa una cosa particolare, proprio un po' lo dico da psicoterapeuta, cioè stavo ascoltando il suo CD e mi sono proprio accorto che sono entrato nel flusso della musica, per cui è come quasi un'esperienza dove tu entri in contatto con una parte profonda di te e non sei più... stai dentro alle cose, lasci che la vita ti scorra dentro, sei dentro alla vita ed è, in termini psicologici, l'esperienza del flusso è proprio il massimo dell'esperienza che puoi fare nella tua esistenza, cioè invece di importi di fare delle cose, le cose si fanno attraverso di te ed è il massimo della realizzazione di sé. Non per niente nell'apprendimento, ma anche nelle attività lavorative, quello che viene spesso consigliato è costruire una situazione in cui tu immergi le persone in un flusso e loro vanno e mentre vanno stanno vivendo in pieno la loro vita. Una musica del genere è proprio una musica fortissimamente capace di portarti in questa esperienza di flusso. Ti ringrazio per il complimento. E quindi in questo flusso, tornando al nostro tema, che è quello della pensione e della preparazione a questa terza fase della nostra vita, Roberto, che è un po' questa. Abbiamo tutti una prima, una seconda e una terza chance. Il professor Piero Barbanti ci diceva, come neurologo, che noi in effetti nella nostra vita siamo tre persone: una prima del lavoro, durante il lavoro e dopo il lavoro. Quindi un terzo tempo che c'è anche in musica. Io preferisco il quarto tempo, che è quello che li raduna tutti e li annulla, cioè in cui tu sei te stesso in ogni momento, in ogni occasione, quello che, la presenza, la consapevolezza, no? E il suono, come diceva Alberto, ha questa forza che non dà indicazioni ma poi ti penetra e ti entra a livello non verbale, no? 800 24 00 24, potete continuare a chiamare al nostro centralino, a superare la barriera rosa, per entrare un po' nel flusso dei nostri pensieri. Siamo partiti dalle pensioni, i tempi, la pensione come occasione di cambiamento, di riscoperta anche di parti di noi. E scusami, ma a proposito di pensione, quindi di anni, di maturità, diciamo, no? Tu sei molto amico di Franco Battiato, che verrà con te a presentare il tuo CD il prossimo 3 febbraio qui a Milano, che è un'occasione per Cuore Denari, ma poi voglio parlarmene. Lui ha l'età un po', no? Di un pensionato, avrebbe l'età per andare in pensione, ma è più giovane, direi, di un neolaureato. Tu che gli stai accanto, sei riuscito a carpire un po' qualche suo segreto? Devo dire che... Ma i segreti non vanno svelati, ma dai, non... però agli amici qualche indicazione, certo, si dà. Beh, ma la passione e la consapevolezza non ha età, no? In fondo io penso che l'invecchiamento è un privilegio, no? Perché sei arricchito di un'esperienza straordinaria che dura tutta una vita, no? Quindi io penso che sia veramente una cosa bella, no? Spesso la viviamo anche in modo mal, però dobbiamo vedere l'aspetto straordinario, no? C'è da dire che ci sono tante situazioni che ti impediscono di vedere, no? Tutta la situazione con questa pienezza che tu ci racconti, con questo distacco sereno ma profondo, perché la vita di tutti i giorni è difficile, soprattutto la crisi, ecco, riuscire ad avere questa visione, però ci si può sempre provare, no? A conquistarla. Guarda, se noi guardiamo in termini psicologici la nostra vita, noi siamo proprio sospesi tra due territori: uno è quello della protezione, dove vogliamo sentirci sicuri, l'altro è quello dell'esplorazione, dove diventiamo proprio dei viaggiatori che vanno alla scoperta di cose che ancora non conoscono. È chiaro che per essere un buon esploratore devi prima sentirti protetto e sicuro, quindi è come dire, devi soddisfare alcuni bisogni di base. Certo, l'artista è molto più facilitato, la sua è proprio un'attività di esplorazione interessantissima, è un po' anche il concept dell'album, dove Sì. No, allora, scusa, quello che hai detto mi fa venire in mente una cosa. Sono appena stato in Russia a fare dei concerti, no? E avevo un amico russo, e sapete che durante le notti bianche a San Pietroburgo non c'è mai il buio, no? Uh-huh. E c'è una leggenda russa, che mi sembra appropriata in questo caso, che dice che il tramonto e l'alba durante le notti bianche si baciano. Questo cosa vuol dire, no? Mi raccontava lui, che quando una cosa sta per finire, il tramonto ci sembra che finisca, in realtà ricomincia subito. E diceva, per noi russi che crediamo molto nella fine delle cose, è di grande conforto, non dobbiamo preoccuparci perché tutto continua, non dobbiamo aver paura del tramonto, perché l'alba tramonto... è dietro l'angolo. Il tramonto e l'alba si baciano. 800 24 00 24, se volete raggiungerci. Intanto vi anticipavo il concerto di Roberto Cacciapaglia, e dicevo è un concerto alla Cuore Denari. Perché? Perché si può, è un concerto, il CD, ne abbiamo ascoltato due brevi estratti, è veramente intenso, poi sarebbe proprio da ascoltare con questa neve che sta cadendo anche a Milano, ma si può partecipare gratuitamente a questo concerto. Sì, è un concerto per la stampa, però io ho voluto, diciamo, che ci potesse essere un'entrata libera, quindi gratuita, per le persone che sono interessate, possono vedere su Facebook, penso. Ecco. Sì, vedi, perché poi gli artisti, no, penso possano vedere su Facebook, perché sono un po' così, no? Gli artisti. No, non lo sai, non lo sa, perché hai ragione, Alberto, però insomma c'è un concerto che sarebbe destinato alla stampa, ma allargato sì, alle persone che hanno la musica nel cuore e anche nella testa. Alberto. Sì, direi che di nuovo, no, se state entrando in quella zona della vita che è una zona di transizione, di trasformazione, di evoluzione, potete andare al concerto, è sempre un'occasione. Tra l'altro vedrete Roberto Cacciapaglia che suona insieme con l'aiuto anche di Franco Battiato, quindi afferrerete un po' quel mistero che stava raccontando. E poi ci sentiamo un po' privilegiati, perché mi piace, è un concerto a cui posso partecipare, se lo voglio partecipo in una location così bella, invitati per radio addirittura dal maestro. Allora io direi che possiamo lasciarci riascoltando, insomma, Fuori Nevi. A Torino mi stanno scrivendo che nevica moltissimo. Noi ci salutiamo sulle note di Lucid Dream, perché l'alba e il tramonto, anzi bisogna dire il tramonto e l'alba, perché la cosa attentissima, si baciano. Buona giornata Roberto Cacciapaglia, che è venuto a trovarci, ad Alberto Pellai, a Gianmarco Ferronati in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi e Marco Lombardo, e noi ci sentiamo domani. Buona giornata e ci ascoltiamo Lucid Dream.